1, 2, 1, 2, 3, 4. In un paese molto lontano, un bel giorno avvenne un fatto strano. Ma prima di narrarvi queste cose, devo avvertirvi son parecchio scandalose. Un politico o un amministratore, per le tasche e per la pancia troppo amore. Qualcuno disse che abusò della sua posizione, lo confermò pure la Cassazione. Ma il suo partito si sarà indignato, avrà ribadito che l'onestà è un valore. Dalle sue file l'avrà cacciato. No. Ah no? Ha candidato quel bravo uomo a senatore. Però il popolo si sarà indignato, avrà pensato qui ci prendono per coglioni, sicuramente non l'avrà votato. No. Ma come no? Il condannato ha pure vinto le elezioni. Quel paese non è poi distante di Kozelowski, ne succedono proprio tante. Però così nessuno dice niente ed è poca la gente che dissente. Tant'è che quel partito senza vergogna ci ha riprovato ad appioparci come proprio candidato quell'onestissimo pregiudicato. E chi pensa che non sia lodevole chiamare un delinquente onorevole, ascolti perché abbiamo la presunzione di avere in tasca noi la soluzione. Si prende l'ineleggibile, lo si mette su un dirigibile, o volendo invece dentro un sommergibile, se volete noi paghiamo il combustibile. Mandare finalmente il candidato pregiudicato. A nostre spese.